sale, sale, risale, più fior di pelle. In cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò. Nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò. Sperando che sia vera. E sole che sale, rosso che brilla. In mezzo a un desiderio cade, cade una stella. Stella, stella che cade tra le cose, le strade. Questo è quello che accade per chi viene e chi va. Santa allegria, sant'amore che vai via. Ascoltami stasera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò. Frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria, santo amore che vai via. Ascoltami stasera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Aspetterò, sperando che sia vero.